Fenori anche oggi. Buonasera Marco. E allora addormiamo? È la frequenza addormentata, magari non noi. C'era Bulotto invece sul ponte, Cisar, come sempre portantisti eccetera. E vabbè. Va bene, non fa niente. Aspetta un attimo Marco. Fai. Marco. Eia. Se ti lascio devo andare a prendere la signora e torno subito. Ci sentiamo dopo. E io. Giulio. Sì, ciao. Marco. Allora Brucio. T'ho riconosciuto, stavo mangiando qua. Poco fa c'era squalo, ma ha dovuto andare a prendere, credo, la 50 e quindi non si è trattenuto. È entrato e uscito, capito? E io sto finendo di finendo, sono ancora a metà di mangiare, ma oggi non c'è un granché di traffico, anzi assolutamente niente. Scusa un attimo che mi metto la sigla qua. Eia. Eccomi qua. E allora, cosa si dice? Mi viene tutta la sera al computer, e tanto cosa fai? Eia. Sì, proprio una penuria di gente oggi, dai. Vabbè, vuol dire che destino. Dai, mi finisco sta pizza, poi si vedrà. Ok. Quando mangiata allora di pizza. Vabbè, così, ma comunque, accendo sempre almeno per scaldare la radio, se no voglia. Se no non va bene, sono salutini, c'è tutto qua. Come ho fatto io ne ho fatte girare questi ultimi giorni 3 di radio che erano ferme da un po', capito? Perché se no si rovina la roba, lasciala ferma. Poi chissà perché baracchini in modo particolare, boh. Vabbè, sai con te, probabilmente l'umidità ambiente, la polvere, tutto insomma, ecco. Ma poi la roba è fatta per funzionare, non per rimanere ferma. Soprattutto, infatti avere una cosa, non la utilizzi, è come non averla. È un po' come i soldi, no? Se uno ha i soldi e non li spende mai, qui vale a non averli, è come non averli i soldi, no? Eia, come faceva Paperone, no? Sul fumetto. C'avevo vasche di soldi ma non era tirchio, come la roba di Mastro Don Gesualdo, non mi ricordo bene adesso com'è, ma c'era questo, accumulava roba, beni, soldi e poi non se li godeva, o giù di lì, mamma lo sa com'è questa storia. Qualcuno è morto anche di fame, io mi ricordo alcuni anni fa, abitava lì nella strada per Bugibugi, eccetera, quella zona lì, un contadino che era carico di soldi, ma tanti soldi. Beh, questa persona è morto dalla fame, ti puoi immaginare quanto, che razza di mentalità di questa persona, no? Quello è il colmo però, a morire di fame in mezzo ai soldi, ma vabbè, mamma mia, domani devo andare là in ospedale, ho detto l'oculista mi devo parlare di cose serie, non di cose importanti, mi ha detto, prevedo un'operazione me per gli occhi. Interessante risolvere il problema, poi per il resto pazienza, purtroppo la vita si riserva a quello e l'altro, non ci possiamo vivere dal giorno della nascita fino ai 100 anni senza mai farsi visitare o farsi controllare o avere qualche problema appunto da dover ricorrere dal dottore. purtroppo la vita è così, e tutti indistintamente, non esistono persone che non, prima o poi non hanno bisogno del medico, guarda. A parte qualcuno che scoppia di salute, eh? Ce n'è gente che non ha mai visto sala operatorie né ingessature, beati loro. Poi sai, gli occhi sono così delicati, mamma mia. Vabbè, si vedrà. Lo credo, ma è tutto. Il corpo umano, qualsiasi organo, è sempre molto delicato, per cui bisogna sempre darsi da fare per condurre, per curarsi, eccetera. Sembra che ci siano persone che non hanno mai visto il medico, ma lui lascia perdere. Quindi ne hanno visto quasi tutti gli altri medici, perché è così, o per raffreddore, o per colpo di tosse, o per qualche strappo, insomma c'è sempre una maledizione che è sempre addosso alle persone. Quando mi ha fatto la visita in sistema, ma lei non ha avuto traumi agli occhi? Ho detto no, incidenti, sì, ma incidenti stupidi che cadeva a terra e boh, ma gli occhi non hanno mai avuto traumi. Infatti mi pare strana questa situazione. E vabbè, non voglio sapere niente prima di domani. Poi dico, se mi volete ricoverare, ricoveratevi in fretta, fatemelo in fretta, che poi c'è l'estate. Beh, certo, ma purtroppo è così. Però io troppo bello sarebbe a non avere mai niente per tutta la vita intera. E poi i conti si fanno alla fine comunque, ammesso che ci sia qualcuno che medico ne ha visto quasi mai, alla fine si fanno i conti. Io so solo che mia madre aveva 95 anni, non è stata mai ammalata, Sentito di una settimana è morta, però aveva 95 anni. Naturalmente l'unica acciacco che aveva qual era? La dolore cervicale, quello sì, quello ce l'ha avuto per anni, però per altre cose mai avuto niente. Nel giro di una settimana è stata ricoverata all'ospedale, l'hanno rimessa, sembrava in piena forma, più in forma di me, dopo 2 giorni è morta, per dire, no? Lui. Purtroppo, adesso vediamo cosa mi dice domani, se è un problema vascolare, prima di tutto potrebbe essere un problema nell'occhio tipo maculopatia o giù di lì. Poi vediamo se c'entra qualcos'altro, tipo il nervo ottico, se c'entra quello, tipo una demielizzazione, vuol dire che ho una malattia muscolare, capito? È molto seccante, ci sono altre implicazioni, potrebbe essere un problema vascolare all'occhio, non voglio immaginare niente, me lo dice domani, se si può operare si fa, se no me lo tengo. Marco, dunque così, sicuramente uno... Una soluzione ci sarà, è ovvio che ci sarà, certo, oggi come oggi il campo medico è molto all'avanguardia, per cui, capita, ma se sostituiscono oggi gli organi, figurati se qualche problema nel dubbio che non te lo risolvono, già si fa, sì, capita, voglia, no. Interessante andarci sempre senza paura, ecco, con coraggio ci devi andare, intanto fare lo devi, coraggio o no, ho paura, fare lo devi sempre, per cui lasci tranquillo, che quello è importante, guarda, la tranquillità del soggetto è molto importante, secondo me, quando uno va in mano ai medici. Io insomma già non posso vedere gli ospedali e soprattutto le sale operatorie, però quando sei in ballo balliamo, tanti addormentano. Che altro pensavo, potrebbe potrebbe essere più seccante non qualcosa nell'occhio, ma qualcosa dietro l'occhio. Che ne so, come ti ho detto prima, vascolare, un nervo, una massa, che ne so. Vabbè, al telefono non mi ha voluto dire nulla. No, ha detto venga domani che ne parliamo. E mi tocca andare, purtroppo accompagnato di nuovo da mia zia, perché sai, lì è medico, vuole saperne di più. Dobbiamo partire alle 9:15. Poi chiudi lì. Purtroppo abbiamo scelto come prima visita, abbiamo scelto questo dottore che lavora all'ospedale di Ozieri. Però se io non volessi farmi operare Ozieri, potrei chiedere tutto l'incartamento e farlo a Sassari, capito? Dipende chi ha l'oculistica migliore a questo punto. Sai cos'è, Marco, quando i servizi vengono bene, che riescono, sono tutti bravi, però errori ne possono fare tutti, sicuramente ne fanno errori, perché io ho sentito anche da poco un medico bravissimo, apprezzatissimo, proprio vantato da chiunque, eppure anche lui ha avuto delle denunce perché ha fatto degli errori. Purtroppo è così. Io bisogna vedere che c'è tutta un'equipe, poi non è che uno solo, quando fanno un certo tipo di operazioni, non è che è solamente un medico, c'è tutta un'equipe che controlla, che lavora, per cui bisogna vedere. Diciamo che nella vita ci vuole anche un po' di fortuna, quello è vero. Però non bisogna disperare, dai. No, disperare no, però, insomma. Vabbè. Vediamo se c'è Gio Maria all'ascolto. Gio Maria, Tore, oppure Bacchisio, Marino, c'è nessuno oggi. Sarebbero entrati, se ci fossero, sarebbero entrati, che hanno voglia. Magari hanno voglia. Bacchisio l'ho vista stamattina io. Aspettavo a tra, mi sono fermato un attimo, gli ho fatto di mano per venire a trovarmi in magazzino, in bottega, e invece non c'è venuto, si vede che si è preso il tram e è rientrato a casa, non lo so, forse aveva qualcosa da fare, non ho potuto prendere tempo. E la mia era per mancare il tempo del tram via Pascoli. Per cui, vabbè, ci saranno altri momenti, dai, che ci sentiremo. Insomma, oggi siamo andati, mannaggia con questi cosi dei gatti, siamo andati a pensare i segni, solito giretto, però niente bancarelle, solo al bar a pigliare una cosa, e poi da Lidl a comprare due cosette a basso costo, e così. Poi stasera abbiamo preso una cantonata, perché questo medico si è limitato a dirmi l'altro giorno, venga da me che ne dobbiamo parlare. Ma io credevo al suo ambulatorio in via Umberto. Andiamo lì, non c'era nessuno. E poi ritelefono e dice no, Ozieri. Io devo fare avanti e indietro a Ozieri per una semplice comunicazione. No, semplice non sarà, però insomma, vabbè, si vedrà poi, da. Si vedrà. Beh certo, sei costretto ad andare così, purtroppo bisogna andare, bisogna aspettare, e questo è il problema. Interessante che poi si risolva la situazione, perché l'aiuto è stare lì, guarda, se sei andato qui a Sassari magari ti avrebbe dato appuntamento che sta da quanto tempo, per cui sei andato così e nel giro di breve tempo hai diciamo tanto, e così poi risolvo il problema. Sì, se vai al pagamento a Sassari ti visitano subito, ti fanno tutto subito, però ci vogliono una marea di soldi. Non è possibile che la sanità in Italia debba essere così. Cioè, insomma, il povero, il laboratorio non si può curare, non si può curare se non hai soldi. Discorso, perlomeno si smettono lì in attesa e passano mesi e addirittura anche qualche anno. Sì, allora io prima da questo oculista, no? Ho pagato, vabbè, 50 euro, quant'è? La visita. Poi ieri, siccome lui lavora lì, non ho pagato nulla, dice, lei fa gli esami come se fosse ricoverato. Mi hanno fatto guardare dentro questa macchinetta, mi hanno fatto la OCT, che credo sia una specie di oculografia, boh, e poi questo FAG, con la fluoriscina, no? Mi iniettano in vena un contrasto per vedere i vasi sanguigni dell'occhio. E poi qualche giorno fa la risonanza magnetica alla testa. Capito? Nulla, tutto in fretta e a gratis. Poi non so se c'è da pagare un ticket, quello me lo diranno dopo. E ti dirò che se mi operano in fretta, a Ottieri vado a Ottieri. Se loro mi dicono si può ricoverare anche oggi, dico a mia zia, tornate indietro, io sono qui. Magari, non lo so, mi preparo un pigiama, delle ciabatte, sa, le solite cose, una spazzolina da denti. Prima me lo fanno, meglio è. Beh, certo, quando una persona ha qualche problema fisico, è chiaro che prima lo risolve meglio è, ce lo credo. Ah, comunque, non ti preoccupare, vedrai che è giusto. Tutto si risolve. Adesso, è chiaro che il medico non ti dice niente, per telefono non ti dice niente. Di persona, loro ti danno notizie, per cui è giusto anche che sia così. Poi il fatto che devi fare questi 50 km o quanti sono per arrivare via Ottieri, pazienza, e non è quello che ti può danneggiare, tanto più che è una persona che ti accompagna, per cui che problemi ci sono. Quindi vabbè, quello sì, se ti dice di ricoverarti subito, non stare via ad indugiare, vai ricoverati e basta, anche se poi non hai quello corrente, puoi sempre fartelo portare dai parenti, no? Problemi non ce ne sono, sì, però l'importante è che non vengano tutti i giorni a trovarmi, perché sarebbe una saccatura viaggiare. Ho detto no, non ci venite, tanto già mangio lì, insomma c'è tutto lì. Venite il giorno dell'operazione e lì mette a vedere quando mi sveglio. E poi quando mi portano via, quando mi dimettono, se fanno in fretta. E vabbè, mamma mia. Ne esce bene da uno e poi arrivano altre rogne. Vabbè, non sono più giovane, ma io mi chiedo questo trauma, dice, ma lì non ha avuto traumi, ci pensi bene? No, non ho preso. Pugni che ho preso uno qui al naso che mi ha fatto un po' storto. Agli occhi io non ho mai preso né incidenti di nessun tipo. Boh. Non ne so. Va bene. Nemmeno Graziano sta entrando, visto, il tratto giorni fa e poi nulla. Infatti, la gente entra così a giorni alterni, non è più quella assiduità e frequenza di prima, ormai la gente si è anche stancata, un po' perché siamo in pochi, un po' perché tanto ormai ci siamo di tutto, di tutti, per cui sappiamo vita miracoli di ognuno di noi, e allora a questo punto, insomma, vabbè, c'è la propagazione, io guardo ieri ho fatto, ieri la domenica, sì, ieri mattina anche, sì, e anche sabato sera ho fatto parecchi collegamenti, ho fatto anche con l'estero, per cui diciamo che sono divertito così, pure di casa, non ho sentito nessuno, e allora pazienza, cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, ormai siamo stanchi della radio. Vediamo se c'è Natalino. Ci sei Natalì? Batti un colpo. Figurati, Natalino, perché batti Gaia, un omologatissimo, proprio piccolo, lasciato più omologato non si può, a norma tutti gli effetti. Lui ascolta, però non parla, se parla ha paura che disturbi, eccetera. E va bene, però non dà nemmeno il colpo di coso, quindi vuol dire che non ci ha l'ascolto. Sì, ma volevo dire, se forse se avesse dato retta a me quando gli ho detto di costruirsi l'antenna, probabilmente non avrebbe avuto problemi, perché sono convinto che il problema di Natalino sono soprattutto i radiali che sparano in una certa direzione, mentre invece con il polo, come ho costruito io, come ho fatto io, la radiazione parte dal centro e dunque è abbastanza diciamo tranquilla. Tu pensa che io ho l'antenna TV, sia la mia che quella del vicino, a 2 metri di distanza, nemmeno 2 metri, ce l'ho nel canastino io, prima ce l'avevo in alto, lontano, anche dalle antenne, eccetera. Quando ho fatto questa l'ho messa lì per provare se aveva delle stazionarie, se c'era bisogno da regolare, invece è andato bene al suo corpo, perché le misure le ho fatte perfette, come ho detto, al computer, e tutto è andato bene. Ecco, la oggi è dopo mesi, e va bene, parlo anche col continente, nonostante che l'antenna è bassa, e va bene, tanto quando si apre la preparazione mi sento nuovamente. Caspita, io mi ricordo negli anni 80, mamma mia, dalla gente che c'era, anche di propagazione, c'era a Santiago 9 questo accozzaglia di modulazioni, tutte una sopra l'altra, Santiago 9, era impressionante, prima di tutto il volume di gente che c'era, capito? Poi la propagazione, forse eravamo capitati proprio nel picco massimo, è una cosa, dava anche fastidio come caspita, chi era sotto il 9 non lo sentivi, e nemmeno chi era 9 lo sentivi bene, roba di propagazione, me lo ricordo sempre. Negli anni 70 mi ricordo, io parlavo addirittura con una ragazza dell'isola d'Elba tutti i santissimi giorni, d'inverno, d'estate, sempre, senza propagazione. Tutte le sere, mancabilmente, parlavo con questa ragazza dell'isola d'Elba. Ci arrivavo in diretta e lei aveva da me in diretta. Ed ero io, Ivan di Osimo, il mobiliere, perché lui in quegli anni lì era frequenza, e parlavamo, facevamo queste, io, Ivan e questa ragazza, tutti i giorni immancabilmente. Per non parlare poi di Antonio Felicelli, Corsica 1, anche quello dalla Corsica ugualmente, anche con quello tutti i giorni parlavamo al baracchino e non c'erano problemi, per dire no, oggi invece non si sente più niente. Prima degli anni 70 io sollevavo la testa nelle case di Sassari, non vedevi altro che antenne TV, per cui ce n'erano tanti, ma tanti veramente. E anche negli anni 80, dopo che hanno liberalizzato, ci sarà stato un picco anche di adesioni, insomma, alla 27. E me lo ricordo anche negli anni 80, c'erano corna, quasi ogni palazzo c'era le corna sopra, e che aveva Skylab, quella a 3 radiali, un quarto d'onda, che aveva Mantova, Superlem, quella, come si chiama quella che era Antonello, sempre a 3 radiali, la Mercury, ce n'era la Firenze 2, a quei tempi, non mi ricordo, mamma mia che roba. Sì, io avevo semplicemente una Grand Prix a 4-5 radiali, adesso non ricordo bene, forse la 4, dell'Alemme, ma era micidiale, andava bene, e poi ce l'avevo installata, addirittura attaccata alla ringhiera del poggiolo a casa, pensa che la punta dell'antenna livello del petto, dicevole, bellissimo, eppure nonostante tutto facciamo dei collegamenti straordinari, quel periodo era tutto bello veramente, mi ricordo con Alghero, con Marionino di Alghero ci parlavo tranquillamente, cosa che oggi ad Alghero quasi non mi sento, e come io non sento loro, è ben chiaro, quando mi sento perché hanno attaccato le mediale, se no non mi sento nemmeno. Vedi bene, ma i tempi ormai sono cambiati, è tutta un'altra cosa, il lettere è stato uno dei segnali e un sacco di cose. E molti disturbi si sono aggiunti, tutti questi alimentatori switching per qualsiasi cosa, crea molto QRM. Chi è che fischia avanti? Sentito sotto Giulio un fischio, avanti? No, sono una propagazione, invece. È la propagazione. Ma se mi stai sentendo bene, sì, il radio anche, con qualche problema c'è. No, ti sento bene, no, quello era Sassari secondo me. A Sassari era. Vabbè, tutti adesso stanno con questi computer, sempre così premendo i bottoni, no, per chattare. Mamma mia, quello non lo posso vedere. Le cose tipo Facebook. Non lo so. Vabbè, gusti diversi. Generazioni anche diverse però. Beh sì, sicuramente. Ormai è cambiato tutto, no? Non è come prima. Altre idee, altri pensieri, altri svaghi, soprattutto quello, altri svaghi. Invece quegli anni lì era straordinario, veramente. Sì, ma comunque è la preparazione quella, perché la sento anch'io quando parli tu. Addirittura c'era uno mettendo il tipo dubbio, tipo immaginare. Poi c'erano anche mormorio, brusio sotto la tua radio, c'era del brusio, per cui è la propagazione che si sente un altro. Ma aspetta che quando io avevo scoperto che mi sentivano col baracchino all'isola d'Elba, poi alla fine avevo escogitato il sistema con la televisione, che anche quella avevo l'antenna nel poggiolo di casa, nel terrazzo. Aspetta che io abitavo allora a solo piano, diciamo, nell'altra casa, non in questa. E riuscivo a captare un sacco di segnali. Intanto vedevo Tele Monte Carlo tutti i giorni immancabilmente. Rai 3, Toscana, quando Rai 3 non esisteva ancora qui in Sardegna. Tele Ciocco, poi non ne parliamo. Tutte queste TV private che c'erano poi inizialmente, tutti le vedevo, tutti indistintamente. E a casa non le vedeva nessuno, Perché? Perché avevo io trovato la posizione dove puntare l'antenna sul tubo, mi avevo fatto dei segni con la staffa che era sempre mezza rallentata, non facevo altro che girare, torcere il tubo e lo mettevo in quella posizione e mi entrava il segnale tranquillo e pacifico. Così, ma c'è qualche bambino Filiberto che mette la portante sotto, naturalmente. Sotto. Cosa volevo dire? Quanto ti arrivava e quanto arrivavi a questa ragazza all'isola d'Elba? Beh, arrivavo basso, avevo la stessa antenna era bassa, intorno alle 3-4, una cosa del genere, sai che lì ne arrivava più o meno di quel segnale, mentre invece Iva da Osimo, quando arrivava anche 8-9, ma Osimo aveva un'altra posizione, lui no. Era uno mobiliere lì, uno che vendeva mobili a Osimo, non so se è ancora vivo, spero di sì, poveraccio, ci mancherebbe. Un mio coetaneo praticamente, una persona della mia stessa età. Avevamo fatto comunale, l'amicizia avevamo fatto con questa ragazza e tutte le sere ci sentivamo. Anzi, ci davamo l'appuntamento e ci chiamavamo, o noi lei e lei, o lei noi, bellissimo. Era proprio fantastica allora il compagno. Bello, caspita, deve essere che ha trovato un canale, proprio non c'erano ostacoli, solo il mare. Piacerebbe provare a fare una cosa oltremare, solo che io non sono abbastanza in alto, non, una posizione non è buona. Io quando ho iniziato l'84 avevo una Sigma, un quarto d'onda, Sigma GPVR, ed era molto bassa rispetto all'antenna di adesso. Se tu avevi visto quel video del terrazzo attuale, la veduta, è che te lo dovrei segnare il punto, ti farei vedere dove era prima la mia antenna, molto più in basso. Ok. Sì, no, ma è sempre una questione di posizione, anche evidentemente io avevo la canalizzazione giusta per quella zona. Del resto lì da l'isola fatto tutti i segnali TV dell'Italia verso la Sardegna, fatto tutti quanti dall'isola d'Elba, per cui sono stato fortunato anche per quello, perché ripeto, io ho l'antenna, ma guarda che spostavo l'antenna a mezzo centimetro per volta, il tubo allentato, anziché stringerlo forte, però che non si spostava poi nemmeno quando c'era vento, e lo giravo così a mano, senza mai bisogno di utilizzare la chiave, perché l'avevo utilizzato, dove è attaccata la ringhiera della casa, e lì uscivo, aprivo la porta a minestra, uscivo dal terrazzo e giravo. Provavo tutte le posizioni più inimmaginabili dei segnali che mi entravano, che erano meraviglia, veramente, proprio bene bene. E così, ma guarda che anche con l'acustica, io vabbè, questo l'anno appena uscito, non quest'anno, ma l'anno scorso, attraverso la metà dell'anno scorso, così, nel 2017, ho parlato con Sandro Vida, di Porto Torres, lì di Corsica, di nuovo, lui è in macchina e io a casa. Anche addirittura l'ho collegato anche col PNR, per dirti no, evidentemente è la posizione che è discreta, certo, verso una certa direzione qua, un Marco. Registrato il permesso. Capito Marco? Veia, io lo faccio venire avanti. Chi è molto cupo? Chi è? Buonasera Marco, buonasera Giulio. Ma chi è questa parte? Cupo cupo. No, sembravi cupo, sai perché? Perché rispetto a Giulio sembravi più cupo, ma la modulazione è la solita, dai, di quell'apparecchio. Ben sentito, ben entrato, oggi siamo soli soli. Avanti Giulio. Ok, ciao Martino. Stamattina non ti sei accorto che mi sono fermato e ti ho fatto di mano per passare con te. Cosa avevi? Fretta di prendere il tram? Volevo prendere il tram perché ero in ritardo con le mie vicine. Ero già un'ora in ritardo, siccome ero all'ospedale. Ho fatto tardi, mi sono sceso perché dovevo comprare dei fagioli per piantare, mi sono sceso subito via per la casa. Sì, ma non immaginate che tu in controluce del sole, non si vedeva un pizzero. Ok, anche perché ho i vetri di sotto, la macchina, questa pioggia stupida che sente, queste luci che fa la macchina a pepaga. Infatti non, in questi giorni non ho nemmeno il tempo di andare a lavarla e non lo sopporto, quando la macchina sfoca non lo sopporto, però purtroppo adesso ci devo convivere, almeno ancora per un paio di giorni, così con la macchina sfoca, anche quello costa. E vabbè, ci saranno altri momenti, altre occasioni, non è un problema. No, se no, se è portato per quello, avrei potuto anche accompagnare io, poi a casa, non era senza bisogno di prendere il tram. Ok, io stavo appena arrivando, ho detto che cos'era, erano già le 9:30, o le 10 addirittura, non so più o meno a quell'ora. Cioè l'ora che generalmente arrivo in bottega. Va bene, avanti Marco. Appa. Hai visto la propagazione salendo? Te l'ho detto che è bello il 23, ti piace molto. Una volta mi aveva detto Carlo Sprimero, no? Che da casa, quando avevo la Grand Plain e abitavo una via più giù, arrivavo basso, alla terra oggi dice sicuramente avrai mare di stazionaria. Era venuto con Rosmetro, controlla, e non si muoveva, era uno sta a uno proprio. Perfetto, perfetto. C'è specialmente io avevo tutta la zona di Palazzi di Vianizza, da Vianizza su a salire, che coprivano la zona della Terolce, capito? Poi c'era più aperto per Alghero, mi ricordo, vabbè, Crystal era in alto, quindi Domenico Crystal mi arrivava a Santiago 9 con quel vocione che ha valuti, ricordi? Sentivo Isidoro da Campanetta all'epoca. Sì, ma certo, ma non c'era mai stato problema. Come avete detto, non c'era mai stato. Guarda, a me me l'ho sentito anche a Urbia, ad esempio, questo. Capita, noi... Vedete, invece è posto, dove si abita, quello che viene a stanza, ad esempio, che viene a vendere il carbone, non mi ricordo mai... Udio Zò. Lì ci arrivo, poi ci arrivo in banda laterale. Di vari tipi, sia TV, sia telefonici, sia radio, eccetera, e per cui c'è anche quello da considerare. Mi ricordo, dalla vostra bottega mia, infatti, con la Vespetta, avevo l'antenna sul parafango della Vespetta, la Vespetta 50 avevo in quel periodo, e io dal sopra il marciapiede parlavo con Villanova Monteleone, tanto per dire che veniva una mattina. Oggi vai tu e arriva a Villanova Monteleone, ma nemmeno per sogno. Vai, ma chi? Avevamo un Ixtal 23 canali, un apparecchio americano, usciva splendidamente, una modulazione, poi con la voce di femminile di mamma, squillante, forte, ma limpidissima. Facevamo TVI per colpa del baracchino a tutta Vianizza, capito, da Viale Mameli. E in più, una volta che sono andato al cinema, ho sentito la sua vocina nelle casse, e c'era l'escoposta che ci stava dando la caccia, capito? Sapevo che ci stava cercando. Ho detto, boh, voga di tutto, che sennò qua finiamo male. Sì, lo stesso problema che aveva quel pescivendolo che sta al mercato, quello, non mi ricordo come si chiama, c'erano due fratelli che parlavano al baracchino, quello che ha i capelli rossi, quei capelli rossi, non mi ricordo come si chiama, anche quello abitava lì dalle parti di Viale della Caprera, mi sembra, via della Vini, quella zona lì. Capita, entrava dal cinema entrava, all'adito entrava, però metteva a sete pignali, era per carità. Infatti sono andati a fargli una vestita, sono andati anche, per cui poi ha smesso, e per forza, e per potenza doveva smettere. Vabbè, qualcuno qui nella zona di quegli anni lì si è sentito nella chiesa, qualche amico molto forte qua della zona, nella chiesa, l'abbiamo sentito nella chiesa, senza fare i nomi. Avanti, ma chi? Non erano buoni, dai, si sentiva tutto, si sentiva gente che entrava nel pitofolo, gente che entrava nel coso, come si chiama? Ma la macchina che mi pare, nel jukebox, per carità, perché allora i televisori di allora e anche tutte queste apparecchiature avevano una media frequenza molto ma molto sensibile, bastava che sull'antenna si posasse un uccellino lì e si metteva a cinguettare, lo sentivi in centro della televisione, per carità, erano uno schifo, erano allora quelle apparecchiature. Li abbiamo utilizzato per tantissimi anni, eccetera, eccetera, ma poi quando hanno cambiato li hanno fatti molto più perfetti, oggi addirittura sono splendidi, oggi qualsiasi marca è perfettamente bella, l'immagine di un televisore, ad esempio, a differenza di prima che invece lui, per carità. Avanti Marco. Eia. Quello del cinema capitava perché mamma dalla sua camera, cioè io usavo l'antenna sul tetto, mamma usava dalla sua camera nella vecchia casa, sul terrazzino, no, sul balcone, una boomerang che era proprio attaccata al cinema, cioè avevamo il cinema di fronte, no, la parte laterale del cinema, perciò entrava lì. Ma quel baracchino proprio X-Tale era terrificante per le spurie e le armoniche che mandava. Poi, vabbè, a parte che si era rotto dopo, avevamo comprato l'FM500S, cioè era omologato, allora i disturbi sono passati. Per dire, cosa può fare un baracchino? Poi non so cosa si era rotto di questo baracchino. Siamo in ritardo nella portante di vari secondi. E allora l'avevamo lasciato a Mario M2, pigliatelo a pezzi di cambio. Perché se disturba troppo è un problema. Va bene. Ok, certo, tanto bene. Prima facevamo la gara chi poteva riuscire ad allargare la banda della 27, perché c'erano solo 23 canali, anzi qualcuno aveva solo 6 canali, io inizialmente ad esempio avevo 6 canali, e allora col quasi, mi ricordo a comprare quasi la Fusaro o la GBC, a cambiare canali, ce ne volte, certo col baracchino aperto, sempre sostituendo quasi, per avere diversi canali, per carità. La 5 e ti dirò che anche Roger K aveva un canale monitor, solo che non ho mai sentito nessuno sul monitor, e mi pare 27615 dovrebbe corrispondere al 17 alto, o giù di lì, non vorrei sbagliarmi. non ho mai sentito nessuno. Invece su altre frequenze già ho sentito qualcuno, anche di Roger Tappa, e a voglia, quando c'è proprio propagazione italiana, no, e non estera, ti diverti. Eia. Va bene, dai, riprendete un po' che mi devo mangiare il dolce, dai. Avanti, prego. Sì, Luca, Santiago 5, che stai arrivando, la radio quasi non ha senso perché c'è propagazione. Io non ti sento, ma ti metti qui da Luca. Sentiamo Luca, buonasera Luca, sì, ti ascolto. Adesso è cambiato un attimo, più chiaro, e avanti. Buona Luca, buono. Ma sei a casa? Santiago 9, stai arrivando, la radio 5. Grazie, non sono io, grazie. Ciao Luca, adesso si è arrivato un po' più forte. Sì, no, siccome c'è molta preparazione, se ne arrivano anche a 9, anche a 9.5, di tanto in tanto anche a 9.10, se parlano loro non ti posso sentire. Se non parlano loro già ti sento, anche se sei fatto di segnale, no, non è un problema. E va bene, dai, riprendi Luca. Ma non ero io qui, ma da tutte le raccolte, mi sento bene, del telegiornale, e sentiamo in altre occasioni, dai. Ok.